edizione. Notizia arrivata poco fa: il partito della leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi, la Lega Nazionale per la Democrazia, è stato ufficialmente legalizzato dalla commissione elettorale, quello che ha reso noto il quotidiano ufficiale del regime birmano. La Lega Nazionale per la Democrazia aveva boicottato le elezioni del novembre 2010 ed è pronta adesso a presentare candidati, tra i quali la stessa San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, alle elezioni legislative che si terranno fra qualche mese. Prima edizione. Le 6, 16 minuti e 49 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Allora, è una giornata un po' particolare perché, come sapete, di solito a quest'ora facciamo una rassegna stampa dei principali quotidiani italiani, principali quotidiani italiani che oggi non sono in edicola per uno sciopero dei poligrafici. Dunque daremo un'occhiata ai primi tre dal lato delle, ai primi 4-5 dal lato delle aperture online e poi vedremo quelli che sono usciti molto rapidamente: Il Giorno, Il Giornale, Libero e Il Manifesto. Ci sono anche La Padania e il Riformista e Il Foglio. Insomma, ne guarderemo due o tre nella giornata di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura della home page è dedicata a Bossi. Bossi: Berlusconi sta con i comunisti, il senatore sospende l'alleanza col Cavaliere e l'asse con il PDL è finito. Il secondo titolo è dedicato al crollo del palco del spettacolo di Jovanotti, muore un operaio, il cantante, tragedia che mi toglie il fiato. Il Corriere presenta anche un'intervista ad un promoter che dice: montare un palco comporta molto stress. Poi ci sono le modifiche alla manovra, in arrivo le modifiche, le liberalizzazioni solo nel 2013. Poi c'è un titolo dedicato alle borse, dubbi sul vertice europeo, borse a picco, bot annuali, l'asta del tesoro va bene. La Repubblica, gli italiani, Monti e la manovra, la fiducia nel premier resta alta. Da segnalare questo perché c'è il sondaggio IPR Marketing: a 30 giorni dall'incarico al professore, il professore gode di ampio consenso al 58%, scalfito ma non di molto dall'annuncio dei sacrifici, la cui responsabilità viene fatta ricadere innanzitutto sul governo Berlusconi. Alta anche la fiducia nella Fornero. Fornero, che è nel secondo titolo del sito di Repubblica. Pensioni: Fornero apre alle modifiche, le liberalizzazioni slittano al 2013. C'è anche la vicenda del crollo del palco di Jovanotti e del concerto di Jovanotti, muore un operaio, ci sono due punti aperte virgolette, a 5 euro l'ora, quindi evidentemente una dichiarazione, qualcuno che racconta questo. E anche un titolo su Bossi: Silvio sta con i comunisti, faremo una moneta padana. Il Sole 24 Ore ha i suoi quattro titoli principali, come sapete, a scorrimento sulla sua home page. In arrivo i correttivi sulle pensioni e le liberalizzazioni slittano al 2013, Il Giorno dello sciopero, Camusso che dice non può essere, può non essere l'ultimo, e Bersani che incontrerà i sindacati. Titolo sulle borse: Milano maglia nera, vola lo spread, patto europeo alla prova, Moody's e Fitch bocciano il vertice, botta ad un anno al 5,95%, la BCE riduce drasticamente l'acquisto di bond. E poi ci sono tutte le scadenze della manovra Monti, almeno quelle che si stanno al momento, naturalmente dalle pensioni all'IMU. Per la manovra Monti si apre la partita dei decreti attuativi. Infine il doppio bonus sul cuneo fiscale, tutto deducibile, il costo del lavoro e super sconto per giovani e donne, come calcolare lo sgravio dall'IRES. Questo per quanto riguarda, scusate, vediamo anche la stampa che apre con le pensioni, arrivano modifiche e liberalizzazioni solo nel 2013, c'è un'ampia foto dedicata allo sciopero generale, e poi il secondo titolo è su Bossi che attacca Berlusconi e dice sta con i comunisti. Terzo invece invece dedicato a Roma-Juve. Buffon parà un rigore, pari a Roma, la Juve aggancia l'Udinese in vetta. Vediamo i quotidiani che sono usciti, tra questi c'è Il Giorno, che apre con un titolo: pensioni e ICI si cambia, la Fornero apre alle modifiche, casa, sgravi per le famiglie numerose. A centro pagina un esclusivo, parla Alberto Stasi, assolto dall'accusa di aver massacrato Chiara Poggi. Stasi oggi dice: i suoi genitori mi capiranno. Il titolo è Voglio vivere. E poi si parla delle buste con proiettili firmate BR, minacciati Alemanno e Severino, bomba anarchica a Parigi. Il Giornale: l'elemosina di Monti porta in faccia la CGIL, è ritoccata la riforma delle pensioni, un contentino ai sindacati, ma su tasse e lavoro il governo tira dritto. Il titolo lo trattano come un nuovo cavo e ora la sinistra perde il controllo di Super Mario. Libero: arriva la stangata bis, l'Istat non diffonde le stime preliminari sul PIL per carità di patria, pare che i dati siano in caduta verticale, se è vero ci aspetta un altro salasso di almeno 20 miliardi in primavera. Il Manifesto sceglie la morte dell'operaio per il crollo del palco del concerto dei Jovanotti, il titolo è Fine spettacolo, un operaio ventenne, studente e lavoratore muore schiacciato sotto la struttura che avrebbe dovuto ospitare il concerto dei Jovanotti a Trieste, 7 i feriti, il cantante sotto shock, tragedia che toglie il fiato, serata annullata e tour sospeso. Si parla naturalmente anche, come potete ben immaginare, dello sciopero, le piazze del lavoro respinte dal governo. Questo è il titolo, e così abbiamo dato un'occhiata anche ai quotidiani che sono usciti. Vediamo rapidamente che cosa invece possiamo trovare anche sui quotidiani esteri. Allora, il Wall Street Journal innanzitutto sottolinea un aspetto interessante, se si vuole poco battuto, perché si è detto che il Premier David Cameron, nel rifiutare l'accordo con l'Unione Europea, lo faceva per sostanzialmente sostenere la City, sostenere appunto la City, quindi il mercato finanziario britannico. In realtà la City pare che tema molto, secondo il Wall Street Journal, le ricadute di questo mancato accordo. Perdere battaglia a Bruxelles potrebbe pregiudicare, così si legge nel Wall Street Journal, il ruolo di Londra come centro finanziario mondiale, trasformare l'isolamento politico britannico in un isolamento economico. Il Financial Times, apertura dedicata anche qua alle difficoltà di Cameron, ma in questo caso alla coalizione in difficoltà, ossia al fatto naturalmente che il vice premier, che è il liberal democratico, è assolutamente contrario alle scelte fatte da Cameron nel corso del vertice europeo. Per andare sui quotidiani francesi, Le Monde apre con la Tunisia, Monsef Marzouki, leader del partito tunisino Congresso per la Repubblica, che è stato un tenace oppositore dell'ex presidente Ben Ali, è stato eletto capo dello Stato dall'Assemblea Costituente ieri, e Le Monde sceglie l'apertura su questo. Come sapete c'è massima attenzione francese alle vicende tunisine. Il Telegraph, oltre naturalmente alle vicende politiche interne britanniche che dominano ovviamente tutti i quotidiani inglesi in queste ore, ospita una sorta di battaglia condotta da Mary Portas, che è una notissima consulente di retail marketing, che lancia un allarme sulla fine delle cosiddette high street, ossia le vie centrali dello shopping, una questione che riguarda evidentemente Londra, le città inglesi, ma in qualche modo riguarda anche noi. Il motivo è doppio: gli outlet e la crisi. Propone, tra le altre cose, di aumentare i prezzi dei parcheggi fuori città per spingere chi acquista a venire dentro, e poi una riduzione delle restrizioni notturne per il trasporto merci. Questo il quadro dai quotidiani. Noi adesso cambiamo argomento e parliamo di Viareggio, dove la cittadinanza è insorta contro la giunta comunale, al centro delle polemiche e risarcimenti per la strage di 2 anni fa. Ci spiega tutto Valentina Furlanetto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori. Accade che il comune di Viareggio ha deciso di accordarsi con le assicurazioni per il risarcimento a seguito della strage. Ve lo ricorderete, parliamo dell'esplosione di un carro cisterna che trasportava GPL il 29 giugno di 2 anni fa. Un incidente che causò la morte di 32 persone. Ora il comune, che è stato a fianco finora dei familiari delle vittime nel chiedere giustizia e pretendere il processo, il 6 dicembre scorso la giunta comunale a maggioranza risicata ha votato una delibera con la quale non solo accetta un risarcimento quantificato in 2 milioni e 800 mila euro, ma lo destina all'assestamento del bilancio. E questo ha fatto arrabbiare e molto i familiari delle vittime. I soldi che dovevano essere usati per progetti sulla sicurezza sono andati insomma a ripianare il buco del comune. Sentiamo il sindaco Luca Lunardini. Io ho già una mozione della maggioranza che impegna, per la verità non c'era bisogno di mozione perché l'avrei già fatto, comunque ho voluto che fosse nero su bianco, che mi impegna a riversare questi denari nel bilancio di previsione, a riversarli sempre su via Ponchielli, quindi a completare tutto quello che di infrastrutturale deve essere necessario, a investirli nella protezione civile del comune di Viareggio, a investirli in tutti i processi educativi e di ricordo che riguardano la strage, ma non solo, anche i problemi del lavoro in genere e comunque le morti sul lavoro. Capisco benissimo, perché l'ho vissuto anch'io con un senso di imbarazzo e di disagio, che questo da alcuni è stato vissuto come soldi che provengono alla città e che vengono utilizzati semplicemente nei conti della città. Tutto quello che ci sarà per ricordare questo disastro, questi soldi saranno dedicati a questo. Le associazioni, come dicevamo, che rappresentano i familiari delle vittime sono molto arrabbiate, dicono che il sindaco si è assicurato la rielezione grazie ai soldi proprio di queste persone decedute. Una scelta, ha detto invece l'opposizione, che rappresenta una pagina oscura per la vita amministrativa. C'è da dire che anche la giunta di Viareggio è spaccata, 15 hanno votato contro e 16 a favore. Per ora è tutto. Prima edizione. Le 6:34 minuti, è il momento di Italia in controluce, ci ritroviamo subito dopo e parleremo di manovra. Sentiamo Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchessi, oggi è il 13 dicembre, oggi siamo in Sardegna con Cristina Carpinelli. Carlo Poccedda, lei insieme a Maddalena Brunetti ha scritto un libro che è stato edito da Verde Nero dal titolo Lo sa il vento, il male invisibile della Sardegna. Ovviamente la domanda di rito per aprire questa intervista è: qual è questo male invisibile della Sardegna? Il male invisibile della Sardegna sono sicuramente gli inquinanti che potremmo chiamare di nuova generazione. E cioè quelli che vengono generati all'interno dei poligoni militari, di cui la Sardegna ha un gran numero, il 60% del demanio militare italiano grava sulla Sardegna. Il male invisibile sono gli inquinanti di una serie di impianti industriali ad altissimo impatto ambientale e sanitario che sono stati costruiti in Sardegna a partire dagli anni 60, parliamo del polo petrolchimico di San Roque, parliamo del polo industriale di Portovesme, di Porto Torres, parliamo del vecchio polo industriale di Ottana all'interno della Sardegna. A fronte di questo non c'è mai stato, diciamo, un controllo sanitario e ambientale che fosse adeguato all'impatto ambientale che queste realtà generano. I controlli sono sempre stati fatti quando veniva fuori o quando veniva denunciato un qualche problema. Il male invisibile della Sardegna è anche l'isolamento che la Sardegna soffre dal punto di vista della comunicazione, che poi è anche il paradosso della Sardegna. C'è un isolamento che permette a certe zone della Sardegna di essere ancora invece incontaminate. Il male invisibile della Sardegna è anche questo silenzio che c'è stato su alcune vicende. Faccio un solo esempio: alcune di queste associazioni dal 15 di settembre si riuniscono in una piazza di Cagliari tutti i 15 del mese per chiedere verità e giustizia. alla stessa, prendendo esempio dalle madri di Plaza de Mayo. In qualsiasi città italiana questo fosse successo, non fosse altro per una questione di cronaca, di colore, sarebbe prima o poi arrivato sulle pagine dei giornali nazionali. E questo non succede. Era il reportage sulla Sardegna di Cristina Carpinelli. Italia in controluce, torniamo oggi per la seconda puntata alle 13.30. Minuti e 15 secondi. E dunque, in una giornata particolarmente importante per la manovra, veniamo ad approfondire proprio questo tema. Lo facciamo con la nostra Adriana Fracchia. Innanzitutto, buongiorno Adriana. Buongiorno a te Simone, sì, e a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi naturalmente è la giornata degli emendamenti, le modifiche, lo diciamo per chi non sapesse cosa sono gli emendamenti, sono le modifiche che si apportano ad un decreto legge o ad una legge depositata in Parlamento, insomma sono le modifiche che arrivano dal Parlamento, possono arrivare anche dal governo. Ecco, ne stanno arrivando dai relatori, che cosa sta emergendo, che cosa c'è? Ecco, appunto, come dici tu, oggi arriva alla Camera il pacchetto di emendamenti alla manovra che contiene modifiche anzitutto sulle pensioni. Si parla di un intervento di perequazione dell'assegno al 70% per le pensioni tra i 1.200 e i 1.400 euro e lo stop alla rivalutazione per quello oltre i 1.400. Poi modifiche possibili sull'IMU ammorbidita in relazione a redditi e carichi familiari, sulle province e forse tagli ai parlamentari. Un'altra delle novità riguarda lo slittamento dal 2012 al 2013 di alcune norme sulle liberalizzazioni, ad esempio sulle licenze dei taxi, ma non quella tanto discussa sulle farmacie. E poi si parla anche dell'imposizione di distanze minime per l'apertura di esercizi, il divieto di aprirli in più sedi, la limitazione dell'esercizio di un'attività economica da alcune categorie o il divieto nei confronti quindi, di altre. Quindi Adriana, tutto questo verrà sostanzialmente rinviato, stando a quel che sappiamo dagli emendamenti? Sì, appunto, ti riferisci alla liberalizzazione. Sì, naturalmente alle liberalizzazioni. Sì, esatto. Sì, sì. Poi ci sono altri emendamenti interessanti, per esempio alcune modifiche di natura fiscale. Una molto importante è un emendamento della Lega che porta a 1.000 euro il limite per il pagamento cash della pensione di anzianità, risolvendo così il problema dei pensionati che sarebbero stati costretti a dotarsi di carta elettronica. Sappiamo che le persone anziane non amano molto questo tipo di pagamenti. E sui pagamenti ancora un altro emendamento sempre del Carroccio porta ad un massimo dell'1,5% la commissione che le banche possono chiedere ai commercianti in caso di pagamento elettronico, appunto. Il calendario comunque è molto serrato, l'esame dei provvedimenti accantonati e dei subemendamenti è fino alle 14, ora intorno alla quale è atteso l'arrivo in aula del Premier Mario Monti, poi l'ok intorno alle 16 per consegnare la manovra e le modifiche all'aula di Montecitorio per mercoledì. La manovra dovrebbe arrivare poi al Senato da lunedì prossimo, ammesso che appunto la Camera dia la fiducia, per la conversione definitiva a ridosso di Natale. Ed è tutto. Grazie dunque ad Adriana Fracchia per questi aggiornamenti. Vedremo anche come procederà questa giornata. Noi adesso ci occupiamo di Europa e di mercati. Allora, la giornata di ieri, tutto sommato lo sapete com'è andata, ve l'abbiamo raccontata naturalmente anche qua a Radio 24. L'indice FTSE MIB è arrivato ad un calo intorno poco meno dei 4 punti percentuali, un calo del 3,79%, la borsa peggiore, ancora altissima tensione sui titoli di Stato. Nel frattempo arriva in questo momento una dichiarazione dal Giappone, del ministro delle finanze giapponese, dice: i leader europei devono prima usare le proprie risorse, definire proprio i piani contro la crisi del debito sovrano prima di chiedere assistenza al Fondo Monetario Internazionale. Questa è la dichiarazione. Nel frattempo si ragiona ancora, e questo è il grande tema, sul vertice europeo di venerdì. Per parlare di questo stamattina ospitiamo Mario Seminerio, che è gestore di portafoglio e blogger economico sotto il nome di Fastidio col PH, come sapete ospite altre volte a Radio 24, a volte anche in Focus Economia, e a 9 in punto con Oscar Giannino. Buongiorno Seminerio. Buongiorno. Grazie per essere con noi a quest'ora. Dunque, ci aiuta a fare un punto abbastanza semplice, abbastanza semplicemente, abbastanza nitidamente, di cosa non è piaciuto ai mercati di questo accordo europeo. Che cosa? Confusione? Qualità dell'accordo? Che cosa? Sì, diciamo, l'accordo è largamente incompiuto perché di fatto non risolve alcunché, non sono state definite delle risorse da mettere a disposizione dei paesi che perderanno la possibilità di accedere ai mercati, perché i mercati di fatto stanno votando una gigantesca mozione di sfiducia nei confronti dell'Eurozona a causa delle incertezze proprio nella strutturazione di questo programma. È stata definita una unione fiscale dalla cancelliera Merkel e in generale dai politici tedeschi, ma non è una unione fiscale, questa è semplicemente una manovra fortemente prociclica, cioè una stretta fiscale realizzata in un momento di rallentamento globale dell'economia, nella quale ciascun paese è solo con se stesso, senza poter contare su nessuna vera forma di mutualità e di assistenza da parte degli altri all'interno dell'Unione. Quello che lei dice, mi scusi, quello che lei dice in sostanza, quello che lei dice in sostanza è ognuno si deve fare alla fine, no? Si parla di unione fiscale, in realtà ognuno si deve fare la sua manovra, che contiene generalmente una stretta fiscale per rispettare quei vincoli di bilancio che la stessa Europa richiede, e in realtà di unitario in questo tipo di organizzazione fiscale non c'è nulla. Assolutamente, se si chiama Unione deve esserci anche una componente tra virgolette solidaristica, che qui mi pare manchi completamente. E quindi sotto questo punto di vista è evidente che si fa altro che una manovra prociclica, quindi destinata a peggiorare la stretta fiscale a livello di singoli paesi. Allora, io voglio ritornare con lei subito dopo la viabilità per capire un attimo come possiamo affrontare le prossime giornate di mercati e molto rapidamente capire da cosa lei, cosa ritiene lei che l'Europa, insomma, che cosa dovrebbe fare l'Europa per uscire da questo evidente cul-de-sac. Prima edizione. Allora, in realtà abbiamo meno tempo del previsto e dunque ci limitiamo a chiedere a Mario Seminerio che cosa pensa delle prossime giornate di mercato. So che far previsioni in questo periodo è complicatissimo, in particolare perché le variabili sono essenzialmente politiche, però le chiediamo di dirci che idea si è fatto. Beh, siccome c'è una situazione di crisi nella quale non è stato risolto nulla con l'ultimo vertice, si può solo pensare che i mercati continueranno a martellare, liberandosi dei titoli di Stato, facendo allargare gli spread, non solo quelli italiani, e facendo aumentare i rendimenti dei titoli di Stato, fino al punto in cui probabilmente i cosiddetti vertici dell'Unione Europea decideranno di fare un nuovo vertice decisivo per cercare di calmare quella che è l'assoluto nervosismo dei mercati, che sta diventando un nervosismo assolutamente planetario, perché stiamo parlando di un'area economica di 500 miliardi di persone dalla cui implosione ci sarebbero delle onde sismiche che si propagherebbero per tutto il pianeta. Sicuramente quello di cui c'è bisogno in questo momento è che vengano apprestate delle risorse molto importanti, perché un enorme quantitativo di risorse per mettere in assistenza un paese grande, ad esempio come l'Italia, servirebbe a calmare l'ansia dei mercati, ma solo in prima approssimazione, perché non bisogna dimenticare che l'intera Eurozona si sta dirigendo verso una recessione che rischia di essere anche piuttosto profonda e amplificata da questi errori di politica economica che sono stati causati da queste ricette. Per cui, se riusciamo ad apprestare un enorme quantitativo di risorse potenziali da mettere a disposizione dei paesi in difficoltà, i mercati si possono calmare. Però non dobbiamo illuderci, perché comunque i prossimi trimestri saranno difficili, perché ci troveremo in un ambiente fortemente recessivo. Grazie a Mario Seminerio, anche se, come dire, no, immagino che avrete sentito, le previsioni non sono proprio rose. Mario Seminerio, gestore di portafoglio, blogger economico, lo trovate su fastidio.net, fastidio scritto col PH, trovate le sue analisi e i suoi commenti sulla giornata. Grazie e buona giornata. Buona giornata. E chiudiamo parlando di calcio e della partita di ieri, Juventus-Roma. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. È stata così un pareggio che poteva sembrare così un punto, due punti persi dalla Juventus. In realtà, tutto sommato, per come si è messa la partita, forse è un punto guadagnato, perché ricordiamo che il momento clou di questa sfida è stato questo rigore di Totti, che aveva la possibilità di chiudere la partita, e Buffon si è opposto quasi magicamente, direi. Tanto Totti di solito ha sempre battuto Buffon, e comunque opponendosi a questo rigore, grande tiratore di rigori, con uno che non è un grande paratore di rigori normalmente. Buffon è un grande portiere, ma non, come tutti i grandi portieri, non è un grande paratore di rigore, non è una definizione un po' così, però va detto che è stata la migliore Roma della stagione. Luis Enrique aveva un sacco di assenze, nonostante questo è riuscito a metterci probabilmente il cuore e la voglia di superare questo ostacolo, e quindi la Roma è passata subito in vantaggio. La Juventus ha pareggiato con Chiellini e poi si è creata questa opportunità per la Roma con Totti di chiudere da rigore. Che è fallita. Juve dunque aggancia in testa l'Udinese e sono pari, Dario, no? Sì, adesso sono pari a 30 punti, mi sembra, sì. Brevissimamente, stasera c'è qualcosa di importante. Stasera c'è Genoa-Inter, che era stata rinviata più di un mese fa per la famosa alluvione che, ricordiamo, ha portato tra l'altro 6 vittime. E niente, si recupera per stasera. L'incasso, lo segnaliamo, andrà devoluto alle popolazioni. L'Inter ha i suoi soliti acciacchi, Schneider rimarrà fuori ancora, Ranocchi e KO, nulla di nuovo sotto il sole. Grazie a Dario Ceccarelli, grazie anche a Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo tra qualche minuto con il giornale radio.